Vabbè, facciamo prima. Sì, no, dico dopo di tutto poi, certo. Facciamo anche per fare delle domande. Allora, dopo queste due presentazioni di Francesca e di Davide, che sono state due presentazioni devo dire, molto dense, penso che Bruno dovrà esibire tutto il suo savoir per savoir-faire. Allora, no, volevo fare soltanto due considerazioni molto brevi. La prima considerazione è che io condivido un punto del discorso di Bruno, ma lo condivido veramente come analista, che la posizione di Lacan è stata una posizione antistatalista. Cioè la posizione antistatalista. Cioè Lacan era, a mio avviso, il modo in cui io l'ho sempre considerato, un grande liberale. Proprio veramente un grande liberale. Voglio dire che questa cosa, prima ho citato il testo di Winnicott, però questa cosa è molto condivisa tra gli analisti. Nel 1948 Bion scrive un articolo che si chiama Psichiatria in tempo di crisi e fu pubblicato su un numero molto vecchio del piccolo Hans, in cui avevano vinto le elezioni laburisti e Bion comincia a preoccuparsi perché dice delle cose molto interessanti. Dice: ora lo Stato interverrà dappertutto, no? Cioè questa idea, diciamo così, che secondo me negli analisti una delle cose più importanti è che ci siano una grandissima autolimitazione proprio dello Stato, dell'intervento dello Stato, e io condivido questa posizione di Bruno. Cioè Lacan secondo me è stato questo, e da questo punto di vista credo che un seminario molto importante di Lacan per cogliere questo aspetto è proprio un seminario che si chiama Da un altro all'altro. È un seminario in cui Lacan pone questa posizione proprio francamente liberale, è proprio una posizione liberale, e lui era, lo era anche come analista, cioè fottendosene di tutti i regolamenti, di tutte le cose, è sempre stato così, anche quando ha rotto con l'IVA. Questo è un punto a mio avviso molto importante per capire la posizione politica di Lacan, e c'è un passo molto interessante, durissimo, nel seminario decimo, dove Lacan dice delle cose sui comunisti, qualificandoli proprio come dei farisei, no? Perché il Partito Comunista in Francia, che pure è un partito molto forte, diciamo così, aveva questa critica costante verso la psicoanalisi, cosa che è stata anche in Italia. Basti pensare che le tre culture che si sono opposte alla psicoanalisi, quella cattolica, quella comunista e quella liberale all'italiana, però dove Bruno, devo dire, non lo fa in questo testo, ma lo fa in un altro testo, diciamo così, lo fa nella postfazione, la teoria delle finzioni di Bentham, dice: guardate, il liberalismo italiano non ha niente a che vedere con questa grande tradizione liberale. Questa è una prima cosa che voglio fare, che si trova in questo testo di Bruno, questa posizione, secondo me, politica di Lacan, antistatalista. Lacan è stato questo, secondo me, un grandissimo liberale, ed è qualcosa che me l'ha fatto amare proprio per questa ragione. La seconda considerazione la volevo fare sull'atto analitico, perché, e Bruno lo mette bene in evidenza a questo punto, cioè se l'analista ha orrore del suo atto è perché l'atto analitico è totalmente infondato. Cioè l'atto analitico, diciamo così, non è un atto che si regge su un sapere costituito, che sarebbe poi la posizione universitaria, perché il discorso universitario non è soltanto il discorso dell'università, il discorso universitario è anche il discorso del medico, quello che si trova nelle ASL quando tu devi intervenire, anche quello che io mi trovo a fare quando faccio l'assistenza nel policlinico, perché tu devi intervenire e dire qualche cosa, cioè dare il sapere. Cioè il discorso universitario si trova ogni volta che in posizione agente si trova l'S2 del sapere, diciamo così. L'atto analitico è un atto totalmente infondato, ed è un punto molto importante, ecco perché l'analista ha un errore del suo atto. E c'è un passaggio, diciamo così, molto interessante di Lacula Barthes e Jean-Luc Nancy nella seconda edizione che hanno fatto del loro testo, un testo molto importante anche per Lacan, Le titre della lettera, che in effetti la traduzione italiana è solo sulla prima edizione. Nel 1990 fanno una nuova introduzione a questo testo, dove dicono una cosa che a mio avviso è pertinente, cioè che nessuno più di Lacan aveva capito che l'analista, non autorizzandosi che da se stesso, rischiava, proprio in virtù di questa assenza di fondamento della posizione analitica, di mimare, di imitare la certezza filosofica. Cioè, quindi, diciamo così, di trovare nella filosofia una risorsa per avere la certezza del proprio atto, e che quindi questo avrebbe poi determinato una conclusione del discorso analitico. Ed è la ragione per cui Lacan, in un certo senso, ha voluto riprendere la filosofia e operare quello che poi Derrida in fondo gli ha confessato, questa grandissima rilegatura del discorso filosofico nel discorso analitico, rilevandolo nel senso egidiano della parola e portandolo nel discorso analitico. Ora Bruno lo sottolinea questo punto. La questione che io gli pongo è questa, diciamo così, no? Cioè l'atto analitico è un atto che dissolve e destituisce anche il soggetto supposto sapere. Cioè di fatto è questo, cioè come limite teorico questo soggetto supposto sapere su cui si legge il transfert analitico viene destituito. Trasferito nell'ambito politico, dove tu, diciamo così, prendi le distanze dalla nozione di Badiou del soggetto, perché il soggetto di Badiou a me sembra, franca, l'idea che mi sono fatto io ho letto il testo Théorie du sujet, perché ho lavorato sul tempo logico e lì lui fa riferimento al tempo logico, le seminari sull'antifilosofia non l'ho ancora letto, però mi sembra che dal tuo discorso emerga un soggetto dotato di una sua padronanza in Badiou, cioè che può rilanciare l'evento, e quindi diciamo da questo punto di vista resta un soggetto padrone della possibilità di fare questo. Invece in Lacan questo discorso non c'è più, non solo perché il soggetto è barrato, diciamo così, ma anche perché destituendosi come soggetto supposto sapere, diciamo così, si destina alla sua dissoluzione, alla sua messa a morte, potremmo dire. Allora, nel campo politico, diciamo così, chi è il soggetto che dell'atto politico? Cioè, se l'atto politico è un atto di dissoluzione, di dissoluzione dei legami per fare in modo tale che questi legami non si cristallizzino, diciamo, però è un atto che suppone che il soggetto politico destituisca se stesso come soggetto politico. Chi è che rilancia questo atto politico come atto di dissoluzione? Questo è un punto abbastanza importante, perché da una parte tu prendi effettivamente le distanze da Badiou sulla nozione di soggetto e metti in evidenza la differenza tra il soggetto di Badiou e il soggetto di Lacan. E poi dall'altro lato fai uso dell'atto analitico portandolo sul piano politico, l'atto analitico che è compiuto dall'analista come atto infondato. Nel caso del politico, diciamo così, mi pare che qui ci sia un punto da discutere, nel caso del politico il soggetto di questo atto che si destituisce contemporaneamente nel momento in cui fa l'atto politico come atto di dissoluzione, diciamo, mi sembrava una questione aperta in questo primo capitolo, che io reputo, diciamo così, il capitolo più denso, cioè nel senso che effettivamente poi il capitolo su cui tu, diciamo così, fai delle considerazioni, confrontandoti con qualcuno che né bene né male, comunque la canna l'aveva pure frequentato. Ecco, questa è la questione che ti volevo porre. Va bene. Allora, grazie prima di tutto, grazie all'associazione che ha accettato e voluto la presentazione di questo libro nella sua sede, grazie a Francesca e a Davide di essersi sobbarcati questo compito ingrato, perché io lo so che è ingrato, perché ho fatto molto spesso quello che avete fatto voi, di leggere un libro e di doversi inventare qualcosa da dire su questo libro, contemporaneamente dando riconoscimento all'autore e poi però anche trovando il modo di dire qualcosa che invece appartiene in proprio, giustamente, perché così deve essere. Allora, a questo io non so se risponderò a tutte le questioni sollevate, che sono tutte quante volete molto puntuali. Io vorrei intanto cercare di spiegare almeno quelle erano le cose che i problemi che mi sono posto quando abbiamo deciso di fare questo libro, perché come ha detto Mario all'inizio, il libro diciamo è un assemblaggio di testi già pubblicati, a cui è stato poi aggiunto una specie di cappello che avrebbe dovuto dare il senso globale e poi l'ha riaperto come sempre accade, e che poi sia diventato una cosa chiamata per volontà editoriale, perché giustamente aveva ragione Maurizio, cioè il titolo doveva essere forte per sperare che si vendesse, la campo politico ha un impatto. Questo è dovuto anche a circostanze abbastanza, non dico casuali, perché ovviamente niente è del tutto casuale, però dipende anche da situazioni che si sono offerte, nel senso che se a me arriva un invito ad un convegno su Lacan, il cui tema è Lacan e le scienze sociali, è chiaro che questo in qualche modo, se io voglio rispondere all'invito che ricevo, è chiaro che determina una scelta, un modo di di usare Lacan. Così come se mi viene un invito a pubblicare in un numero italiano della rivista diretta e ispirata a Žižek, è chiaro che io tengo conto delle posizioni di Žižek, e questo determina l'approccio a Lacan, dunque tutta la questione del rapporto con Marx e della questione del sintomo. E così come quando mi si chiede di partecipare a un libro collettaneo, appunto, che era quello che citava Mario, sui nuovi sintomi, sul disagio, le nuove forme del disagio, libro che ha anticipato quello pubblicato da Einaudi, ma che ha avuto meno fortuna, come ovviamente, perché non pubblicato da un grande editore e dunque è stato abbastanza ignorato, è chiaro che a me viene in mente, per una serie di altre suggestioni, di giocarlo sul tema dell'angoscia. E infine la questione della democrazia viene dal fatto che insieme a Maurizio e ad altri amici avevamo incominciato a riflettere su questi temi della democrazia, e un volume che è uscito, La democrazia in Italia, dove io ho tentato appunto di usare alcune cose di Lacan, che ovviamente in quel caso sono un vero e proprio utilizzo, nel senso che Lacan non ha detto nulla, e io arrivi nell'ultimo capitolo a utilizzare le formule della sessuazione per indicare appunto una possibile concettualizzazione della democrazia. È chiaro che in Lacan questo non lo trovate, questo dovete imputare me soltanto dell'uso, se funzioni o non funzioni, o se è una pura e semplice follia. Allora, mano a mano, insomma, è venuto fuori che c'era un materiale che si era costruito in qualche modo da solo, anche se non da solo, perché poi avevo accettato di rispondere a questi inviti e di giocare così la lettura di Lacan, è finito per uscire il libro di cui stiamo parlando, a cui appunto alla fine ho dovuto pensare un saggio che avesse carattere introduttivo e che in qualche modo però rispondesse alla domanda su che vuol dire una politica lacaniana, che è ovviamente una domanda che si può rifrangere in molti aspetti, che sono quelli che io ho cercato tutti quanti, non so quanto ci sono riuscito, di praticare. La prima cosa è: che cosa pensa Lacan della politica? Una cosa che mediamente viene saltata, mentre invece, se uno si occupa di questo argomento, mi sembrava la prima cosa da fare. Facciamo una analisi dei luoghi testuali, non so se li ho colti tutti quanti, mi sono servito ovviamente di operazioni sul lessico lacaniano non fatte da me, uno usa gli strumenti a disposizione, per ricostruire appunto tutti i punti in cui Lacan, in cui compare il termine politica, perché poi questa è l'operazione. È chiaro che ci saranno altri luoghi nei quali in maniera indiretta Lacan prende posizione, ma insomma l'idea era di partire dai luoghi in cui esplicitamente compare il termine politica. Questa è una prima ipotesi. La seconda è: esiste una teoria politica in Lacan, o comunque una teoria politica che io possa derivare, non facendo appunto un uso semplicemente, ma stando il più possibile all'interno del discorso di Lacan, che si possa costruire? Ed è una seconda ipotesi. Terzo problema che io mi sono posto perciò ho deciso di intitolare il secondo capitolo, che poi unisce appunto due saggi pubblicati in luoghi diversi, sotto un titolo unitario, e cioè: quale politica per la psicoanalisi? Perché appunto è anche un altro aspetto di cui non ragioniamo. Cioè, quando io facevo la notazione un po' brutale sul fatto che gli analisti si accorgono che esiste lo Stato, soltanto quando lo Stato decide, per esempio, quali sono gli iter di formazione per diventare psicoterapeuti, allora a quel punto si accorgono che esiste un sistema di leggi, di procedure, di dispositivi, e ovviamente reagiscono come tutte le corporazioni di questo mondo, dicendo: ah, qua c'è un attentato alla nostra libertà. Questa è una vecchia storia, parte dalla legge Orsicini, quella che in Italia appunto ha introdotto un certo iter, come sapete, purtroppo per gli effetti deleteri di uno dei tre a cui Lacan dette il compito di portare la canna in Italia, cioè Verdiglione, e da lì è incominciata una storia triste per la psicoanalisi in Italia, perché l'effetto di Verdiglione è stata la legge Rossicini, che sarebbe arrivata probabilmente lo stesso. Verdiglione è stata, come spesso accade, semplicemente l'occasione per spingere questo discorso, cioè di irregimentare la formazione degli analisti, degli psicoterapeuti in generale e ovviamente degli analisti all'interno del campo delle psicoterapie. Allora, c'è un problema, ma chi governa un paese, che a meno che non si prenda, non veniamo presi, cioè, o vengono presi anche gli analisti dalla sindrome di Siracusa, come la chiama Derrida, che è la sindrome di Platone, che voleva insegnare al tiranno che come doveva governare e qual era lo stato migliore, e visto che il tiranno normalmente non sì, faceva finta di stare ad ascoltare il filosofo, ma poi o lo metteva in carcere o insomma cercava di fargli fare altre cose, decide sarebbe meglio che i filosofi governassero direttamente. Allora evitare questa sindrome e pensare che allora gli analisti vanno a governare, perché sarebbe ancora più complicato per gli analisti assumere direttamente le posizioni del governo politico. Però c'è un problema: che cosa fa la politica per la psicoanalisi? O l'unica, e questo mi pareva che era anche una questione da sollevare, perché in realtà non solo le culture a cui faceva riferimento Mario, ma le organizzazioni statali, secondo me, tollerano male l'esistenza del discorso analitico, cioè perché è un discorso appunto che centra la propria attenzione sull'avventura singolare e ovviamente va in direzione contraria a ciò che fonda le civiltà in generale, cioè che bisogna accettare un disagio. Allora, secondo me il discorso analitico fa in modo che il disagio che bisogna sopportare sia il meno possibile. C'è una porzione che non è possibile eliminare, perché altrimenti non vivremmo più in situazioni sociali, ma è ovvio che ci sono gradazioni diverse di quale sia il disagio sociale e dunque la rimozione delle pulsioni a cui siamo chiamati a soddisfare. E allora questo ragionamento però ha, come dire, una potenza eversiva, cioè non è casuale che i discorsi dominanti che fanno da collante sociale, almeno nella modernità, che sono, continua ad essere il discorso religioso. Lacan su questo è sempre stato, come dire, molto consapevole della insostituibilità strutturale della Chiesa Cattolica Romana, che poiché gli esseri umani sono assetati di senso, ha un avvenire assicurato, cosa che non si può dire della psicoanalisi, che invece appunto sospende le situazioni di senso. Il discorso liberale classico o liberale, laddove il liberalismo pensa che la società sia niente altro che l'insieme di individui pensati come degli atomi, cioè il punto di rottura fra il liberalismo e la psicoanalisi ovviamente sta nel fatto che per il liberalismo il soggetto non è diviso, questo è il problema, e per la psicoanalisi sì. Se voi prendete i classici della tradizione liberale, Locke, Hume, la tradizione appunto anche Bentham e tutta questa tradizione poi sostanzialmente inglese, dunque io non parlo del liberalismo italiano alla Benedetto Croce, ma la grande tradizione liberale che è antistatalista, perché ovviamente deve affermare la indipendenza di una serie di diritti che sono specifici dell'individuo e che però questo individuo è atomico, vale a dire non si può più suddividere, dunque non è un soggetto diviso, è un soggetto pieno. Questo è ciò che rende impossibile la convivenza fra il liberalismo in questo senso preciso e la psicoanalisi. Terzo, il discorso socialista. Io vorrei incominciare, dalla mia parte ho scoperto un grandissimo, uno dei più grandi storici marxisti che sia mai esistito, che è Hobsbawm, che fa una distinzione, la fa anche proprio dal punto di vista degli usi, dei termini, cioè lui dice nell'Ottocento comunismo è una parola che indica un progetto politico di emancipazione, socialismo è una teoria della società, dove mi si dice che cosa devo fare come singolo per non venir meno agli oneri sociali. Io direi che, io personalmente penso che bisogna fare questa distinzione nostra, e quando uno si dichiara, se si vuole ancora dichiarare e non ha paura di farlo, perché ovviamente non è molto di moda, comunista, comunista significa questo. Comunista non ha niente a che vedere con il richiamo alla solidarietà, al fare gruppo, come diceva Mario, al fatto che ci deve essere un legame sociale. Comunismo è un progetto di emancipazione, cioè di sfuggire letteralmente alla presa delle mani, che sono, come sapete, il principio di ogni schiavitù. Avere qualcuno nelle proprie mani e farne quello che si vuole è il principio, nella storia stessa della società umana, del dominio. Il comunismo è un progetto che ovviamente, come la medicina sceglie di volta in volta qual è il discorso scientifico dominante per trovare un minimo di sensatezza alle operazioni di cura, così il comunismo di volta in volta deve trovare qual è il discorso scientifico che gli permetta di avere poi nelle strutture sociali delle vie. Allora, che il comunismo incontri in un certo momento Marx, adesso di nuovo si è scollato da Marx, e perciò che il comunismo è in una fase, come dire, di totale inconsistenza, perché si è scollato da quello che era l'unica teoria scientifica su cui poteva fondarsi una strategia politica. Senza un fondamento scientifico il comunismo torna ad essere una specie di o appello sentimentale o appello etico nel senso del moralismo, o appunto l'idea della ricostituzione dei legami sociali. Quanto più fanno colla, tanto più, come dire, vanno bene. E questo appunto, e ora può darsi che Marx non sia più utilizzabile, però trovo che manchi totalmente, sapete che Marx ed Engels se lo dicono, noi abbiamo fondato il comunismo scientifico, quello che c'era prima è il comunismo utopistico, o comunque un comunismo di tipo socialistico, cioè che si limita semplicemente a dire, come era in Saint-Simon, come era in tutta la tradizione del socialismo precedente Marx, quello della ricostituzione o rafforzamento del legame sociale, per la tesi, ovviamente, e incomincio a rispondere a Francesca, per cui il capitale, la sua apparsa nella storia si dà immediatamente nella forma della dissoluzione di tutti i legami sociali precedenti. Quando Lacan dice che il discorso capitalista dissolve i legami sociali, tendo a pensare, non sono sicuro e non lo so, ma tendo a pensare che sia una citazione letterale del Manifesto. E cioè che se uno apre il Manifesto, la cosa che immediatamente viene fuori è che il capitalismo liquida tutti i legami sociali precedenti. E Marx, lo si può accusare di ottimismo, come fanno alcuni dei teorici attuali, anche di sinistra, però Marx, come dire, dice che la cosa è buona e che questo è un fatto positivo del capitalismo, che elimini i rapporti di potere precedenti, che sono rapporti schiavistici, rapporti di sudditanza personale, sono sudditanza alla terra, dissoluzione delle strutture familiari, viva Dio che si distruggono le strutture familiari, perché erano soffocanti e insopportabili. Dopodiché è chiaro, il problema è che il capitalismo sostituisce a questi legami sociali un'altra forma del legame sociale che si presenta, che nelle forme estreme, quelle che Lacan incomincia a capire negli anni 70, infatti il discorso del capitalista arriva a quel punto, e c'è di mezzo il 68 sia nel senso positivo che in quello negativo, per cui Lacan da un lato all'inizio aderisce al 68 e poi si trova di fronte a una questione che appunto riguarda il dominio del discorso universitario e la incapacità da parte degli studenti rivoluzionari dell'epoca di capire quanto essi erano in realtà burattini e marionette nel potere del discorso universitario, che in qualche modo contribuivano proprio a fare in modo che si affermasse, nella convinzione invece che lo stavano distruggendo. Per cui c'è questo itinerario di Lacan rispetto alla questione del 68, dove appunto capisce questo fatto, che capisce Pasolini in contemporanea, sono gli stessi anni, i primi anni 70. Pasolini cita Lacan in qualche luogo, queste cose ovviamente uno non le ha mai pensate quando leggeva in diretta Pasolini, anche perché come dire, questi rapporti molto più sotterranei, molto poco visibili, non venivano fuori. Adesso si può fare questo lavoro. Pasolini nell'ultimo cita Lacan, come cita tutti i francesi, anzi sembra che il suo grande punto di riferimento sia diventato la cultura francese più che le tradizioni italiane. E questo è molto importante, se per rileggere Pasolini in questa chiave. Allora, capiscono entrambi che il capitalismo è entrato nella fase consumistica e per cui la sua ingiunzione fondamentale è consumate, perché il consumo è l'unica possibilità perché continui l'accumulazione di plusvalore. Questo però è un legame sociale, non è un invito alla dissoluzione dei legami sociali, o perlomeno è l'invito alla dissoluzione di tutti i vecchi legami sociali e al fatto che i vecchi legami sociali, io faccio riferimento, Davide lo ha citato, al caso del discorso universitario, quando Lacan nel 68 è il momento in cui, proprio come un effetto del 68, paradossalmente il ministro dell'istruzione in Francia applica per la prima volta il criterio del calcolo delle unità di valore nella valutazione del lavoro degli studenti, che significa molto banalmente sussumere il lavoro intellettuale, questa volta per il momento dal lato degli studenti, sotto la forma del valore di scambio. Questo vuol dire. Lo stesso vale, e lo sappiamo perché questo è, diciamo, l'effetto degli ultimi 30 anni, tutto l'ambito della cura, che era una cosa che si giocava, come sapete, nelle famiglie e dove era ovviamente la presenza femminile che aveva questo obbligo di occuparsi della cura, che ancora adesso, ho letto stamattina un articolo in cui ci sono cose in cui, dal momento che il Papa Francesco, una delle peggiori espressioni del dominio cattolico, questo Papa, ha detto che i preti non debbono chiedere i soldi per, che ovviamente questo tariffario che fanno le povere parrocchie serve a campare. Qualche volta ci sarà pure qualche tentativo di farci la crista, ma insomma, credo, vista la situazione disperata delle parrocchie in Italia, presumo che questo serva a fare campare. Il Papa ha fatto un intervento, secondo me, micidiale, perché gli ha detto praticamente dovete fare tutto gratis, invitandoli a far la fame oppure a vivere di elemosina pubblica, perché non si riesce a capire questo intervento. E c'è un articolista il quale dice che questo è un intervento molto importante perché stabilisce che ci sono cose che non si possono comprare. Come sapete, pare che se ci sono cose che non si possono comprare, a parte che ovviamente il godimento quale si manifesta infatti non si può comprare e infatti non si riesce a governarlo laddove si intrufoli o cerchi le vie traverse per affermarsi, perché poi ciò che non si può comprare ovviamente sono i cosiddetti valori assoluti, perché sono quelli, tutto il resto è relativo e di conseguenza entra nella relazione di scambio e nella possibilità del calcolo del valore. Quello che non si può comprare significherebbe soltanto che è un valore assoluto, e infatti il godimento è il valore assoluto, è l'unico valore assoluto con cui gli esseri umani hanno continuamente a che fare, tentando di renderlo relativo, perché se è assoluto ci sono difficoltà concrete a viverci con un godimento come valore assoluto. Allora loro capiscono entrambi che c'è questo problema, ma che appunto il problema è che non sembra un legame sociale, perché il capitalismo fonda legame sociale indipendentemente dal valore singolare delle persone, per cui non sono più i rapporti personali, che sono anche rapporti alle volte di vassallaggio, vassallaggio sociale, vassallaggio erotico, perché no, ma sono al contrario le pure posizioni che come dei parti degli scacchi vengono assunte sullo scenario dello scambio, del valore di scambio e dello scambio sociale. Allora non sembra più che sia un legame sociale, sembra che ognuno vada avanti per proprio conto, e invece io credo, e secondo me Lacan è questo che dice nella conferenza del 72, che oltretutto è l'unico luogo in cui si parla per esteso del discorso del capitalista, per questo io ci vado con i piedi di piombo su questi discorsi del capitalista, perché in realtà non è che sia un tema che Lacan riprende 50.000 volte e come tutte le cose ripetute alla fine uno le capisce. Qui invece abbiamo una situazione da apax, cioè compare lì. Oltretutto il testo è lacunoso perché era una trascrizione su una registrazione, ci sono pezzi che mancano e dunque non sappiamo neppure come alcuni passaggi debbano essere letti nel contesto complessivo del discorso fatto a voce da Lacan. Cioè io trovo che sia molto complicato prendere questo discorso, per questo io tento, utilizzando altri luoghi, altre fonti, di legarlo ad una variante del discorso del metro. Intanto perché io continuo a pensare che c'è un comando, è il comando capitalistico sul lavoro. Cioè come si fa a dire che non c'è un significante metro o non c'è una relazione di comando? Trovo personalmente difficile accedere all'idea che non ci sia una funzione del comando. Perché è vero che, questo lo dico a Davide, è vero che la barra significa che sta sotto, ma la barra significa che anche che inconscio e basta, cioè che non compare sopra la barra, certo. Mentre il significante è, come dire, simbolicamente riconosciuto e c'è dall'altra parte infatti un sistema simbolico col quale interagisce necessariamente, che cosa poi, di che cosa il significante sia il rappresentante, quello noi non siamo in grado di dirlo in me, perché non siamo coscienti di che cosa il significante rappresenta, perché rappresenta appunto il soggetto inconscio. Allora, il fatto che sia sotto la barra vuol dire che inconscio, se il significante padrone o significante maître è sotto la barra, non vuol dire che è represso o che è escluso, vuol dire secondo me semplicemente che è inconscio e che però sta lì e continua a governare i processi. Non sarà più il significante maître che Lacan identifica in Socrate, se tu poi prendete il seminario sul rovescio della psicoanalisi, il modello del maître è Socrate con Menone, è lo schiavo che sta lì da terzo a dimostrare quanto è bravo il maître, ma dopodiché non è più in quella modalità perché appunto il significante maître nel discorso universitario è il soggetto della scienza, che è completamente disincarnato, che non ha più quella incarnazione reale in Socrate, nel maestro antico. Il maestro antico ovviamente è sempre identificabile, no? Ha un nome e cognome sia nella Grecia classica sia nelle scuole ellenistiche, si chiama Epicuro, la Stoa forse ha meno questi personaggi, ma c'è un maestro col quale si ha un rapporto. Nel caso universitario il maestro non c'è. C'è l'insegnante, cioè colui il quale trasmette catene segniche che sono il modo di organizzazione dei saperi. Però c'è uno che c'è un'istanza di governo di questo processo che non si manifesta necessariamente. Qualunque soggetto universitario vi dirà che lui non vale per le sue prestazioni, ma vale per la validità oggettiva del sapere di cui è portatore, ed è questo quello che conta nell'università, dove il soggetto nella sua singolarità è strutturalmente escluso, tant'è vero che esse barrato cade fuori del discorso universitario, per cui non può essere presente nell'università se non nella forma del desiderio degli studenti che stanno lì e su cui ovviamente anche il singolo insegnante universitario fa le sue basse operazioni in qualche modo, basse o alte a seconda, ma insomma seduce di fatto sempre lo studente e sfrutta questo desiderio dello studente di essere addottorato. Allora io penso che questa sia l'acquisizione e perciò che insisto sul fatto che questo godimento in realtà è sempre costantemente mancanza di godimento, che il fatto che noi consumiamo incessantemente oggetti, che all'estremo limite, come dicono ormai molti, questo godimento sia un godimento fallico, cioè un godimento, come dire, totalmente concentrato sull'oggetto piccolo A che assume le varie forme, discutendo con alcuni seguaci di Recalcati qualche anno fa, venne fuori la questione del Magnum, io trovo una delle il gelato Magnum, io trovo una delle più belle pubblicità da interpretare, perché il Magnum, già il nome lo dice, la forma del gelato, come sapete tutti, è stato usato recentemente con la povera ministra della pubblica amministrazione, per cui è così evidente il cono gelato che cosa significa. E c'è una pubblicità, come ricordate, per cui i pochi soldi che l'uomo ha in tasca gli servono o per comprare il preservativo, ma ovviamente davanti al magnum non resiste e si compra il magnum, il che significa rinuncia ad una relazione oggettuale e preferenza per un godimento solitario. Allora, probabilmente il modo del godimento quale si dà nel capitalismo è il godimento solitario, questo si spiegherebbe anche fenomeni estremi di ragazzini che stanno davanti al computer e non escono più di casa, che probabilmente significa anche, forse, non lo so, che il rapporto diretto col godimento altro diventa un problema e per cui è tutto molto più facile se ciò avviene attraverso il computer, evitiamo di conseguenza le difficoltà. Eviterei di avere un atteggiamento moralistico su queste posizioni, perché poi ovviamente chi aiuta i soggetti a sopportare il godimento altro o il godimento dell'altro? Ecco, probabilmente uno degli effetti del capitale è che rende difficilissimo al soggetto reggere il peso del godimento. Riporto la tripartizione di Miller, che mi sembra sempre estremamente utile e che ci aiuta a capire molto: il godimento altro è il godimento femminile, il godimento dell'altro è il fatto che anche l'altro gode perché manca, e gode purtroppo a spese nostre. Questo è quello che, per cui poi siamo invischiati sempre nel suo godimento. Allora, noi, probabilmente, il capitalismo rende estremamente difficile reggere l'impatto col godimento altro e col godimento dell'altro, e di conseguenza, poiché la sua legge è il consumo, fa in modo che le persone consumino nelle forme del godimento fallico. E questo produce però problemi, perché poi ovviamente i sintomi stanno lì, sia i sintomi classici sia i nuovi sintomi, come ormai vengono chiamati, per cui vuol dire che questa cosa in realtà non funziona e che vale sempre il disagio della civiltà. Può darsi che il disagio della civiltà capitalistico sia più forte del disagio di civiltà precedenti, ma resta sempre che c'è una fonte del disagio, cioè che non c'è un godimento che sia praticato e ottenuto attraverso, perché è ovvio che il godimento non è qualcosa che si fa in un faccia a faccia, si fa utilizzando una vicissitudine della pulsione che Freud e Lacan, mi pare che su questo sia sostanzialmente d'accordo, che è la sublimazione. Le forme della sublimazione non funzionano più, e questo è un altro grande problema. Questo probabilmente è un problema politico, secondo me, e della politica culturale in senso proprio. Ovviamente anche qua, quale politica per la psicoanalisi, cioè quale politica culturale va assunta da chi governa una comunità per rendere possibile le forme della sublimazione nei termini possibili oggi, per esempio? Mi sto dilungando, voglio tornare invece al problema. Questo era l'aspetto, appunto, di quale politica per la psicoanalisi, perché io penso che questo è un aspetto che in genere non viene messo in evidenza. Semmai l'atteggiamento è: quale politica traiamo dalla psicoanalisi e in particolar modo da Lacan? Perché ho scelto Badiou? Ma perché ovviamente a me colpisce molto il fatto che Lacan sia l'analista dei filosofi. E questo fatto non mi inorgoglisce, perché secondo me è un problema, perché molti filosofi secondo me usano Lacan, perché Lacan gli fa da sponda continuamente per l'uso che fa della filosofia, un uso massiccio della filosofia, gli offre una giustificazione della propria esistenza e anche una legittimazione al di fuori della diciamo legge del discorso universitario. Cioè, questo innamoramento dei filosofi, ovviamente mi ci metto anch'io nel conto, perché non è che non ho subito questo fascino e non ho da qualche parte pensato che Lacan legittimava esattamente la posizione filosofica, è un problema dei filosofi, solo che questa cosa mi colpisce molto. E laddove la cosa riguardi la politica è ancora più eclatante, per questo io ce l'ho tanto con Laclau, che poverino, insomma, poi era anche una persona affabile, però, ma ce l'ho perché ripete anche qui in maniera molto più evidente il gesto di Platone. Cioè, è il filosofo che utilizza in maniera anche piuttosto ballerina concetti, categorie lacaniane e in realtà detta la verità alla politica. Questo è il punto. La filosofia politica nasce appunto con Platone e con Aristotele, cioè con l'idea che, poiché i filosofi sono coloro che sono deputati e legittimati a produrre e a legittimare il discorso vero, essi ovviamente sono gli unici deputati a dire qual è la verità della politica, perché la verità è affar loro. Non c'è una verità politica indipendente, autonoma, che sia altra da quella della verità filosofica o della verità logica. È il filosofo che deve governare, o direttamente o indirettamente. Io ho l'impressione che i filosofi politici, in parte anche Žižek da questo punto di vista, fanno questa operazione con Lacan. Ed è per questo che ho scelto Badiou. Perché Badiou, che in parte la fa, però almeno è uno che intanto cerca di restituire Lacan per quello che è. Questo per la sua storia, su questo non mi dilungo, per essere una di quelle persone come Jacques-Alain Miller, come altri, che ha conosciuto Lacan in quanto allievi di Althusser all'École Normale. Ed è una lunga storia della filosofia francese e della intellettualità francese del secondo Novecento che ha questa doppia origine, da un lato politica con Althusser, dall'altro psicoanalitica con Lacan, questo continuo passaggio dalla politica alla psicoanalisi lacaniana e viceversa, che autorizza in qualche modo queste persone a prendere posizione e le rende, dal mio punto di vista, le più utili per impostare questo discorso. Perché appunto Badiou, da un lato, è uno che conosce molto bene Lacan, lo ha ascoltato, lo ha seguito, ma è contemporaneamente uno che dice: qui io non sono più d'accordo con Lacan. Questo è importante perché evita appunto, diciamo, l'utilizzo scanzonato di Lacan che fanno altri. Cioè Badiou è uno che dice: su questo sono d'accordo e su questo non sono d'accordo più, il che permette, secondo me, in maniera indiretta di accedere a che cosa può essere una posizione politica di Lacan. O soprattutto, non tanto qual è la posizione politica di Lacan, su cui, non ripeto, è quella che ha detto Mario, sono d'accordo con lui, Lacan è un liberale e il suo problema è come liberale nella pratica analitica, la quale non decide che cosa dovrà fare il soggetto, ma libera il soggetto, lo disincaglia dai nodi e gli dà la possibilità di riannodare più o meno come gli pare, partendo dal sintomo, perché ovviamente i nodi che poi attanagliano i soggetti sono quelli che cercano di eliminare il sintomo. Il nodo che libera è il nodo invece che parte dal sintomo e riannodi intorno al sintomo. Probabilmente tutto il compito dell'analisi è questo, quando riesce, è di fare in modo che il soggetto riannodi a partire dal sintomo. Non ci sono indicazioni sulle condotte di vita, non c'è che cosa deve fare, non c'è prescrizione in questo senso in cui diceva Mario. In questo senso Lacan è un liberale, d'altronde lo dice lui: io sono liberale quando si scontra con gli studenti, questa è la tesi che esprime, io sono liberale, forse voi non sapete manco cosa vuol dire essere liberali. Questa è la sua tesi ed è un antiprogressista, su questo non ci sono secondo me dubbi su questa posizione di Lacan. Una cosa diversa è se io posso costruire una politica a partire da Lacan, che una cosa è quello che Lacan pensa della politica e più o meno è questo, una cosa diversa è che cosa io posso invece pensare di atto politico a partire da Lacan, e questo è quello che Badiou in qualche modo rende possibile fare e che mi è sembrata la cosa più interessante da tentare di fare. Il passaggio attraverso l'atto analitico e capire se l'atto analitico non sia direttamente, perché non lo è, un atto politico, ma se possa diventare in maniera indiretta, dare qualche indicazione su che cosa potrebbe essere un atto politico. Che ovviamente non può essere più l'atto politico di una relazione a due, quale quello del rapporto analitico, ma è l'atto politico di, io, e qui vorrei dire, non di un gruppo, ma qui, visto che Lacan dice che è il Lenin della psicoanalisi, perché queste affermazioni vanno pure prese un po' sul serio, è chiaro che sono anche un po' aneddotiche, nel senso che compaiono là, poi non vengono. Però se uno dice io sono il Lenin della psicoanalisi, qualcosa dovrà pur significare. Ora, Lenin da che cosa è caratterizzato? Dal fatto che ha fatto la rivoluzione? No. Dal fatto che ha costruito il partito. Questo è Lenin. E ha detto che il comunismo arriva ai soggetti dall'esterno. E cioè che se noi aspettiamo che in maniera autonoma e spontanea i soggetti impegnati, cioè la stessa classe operaia che occupa una posizione che la dovrebbe rendere comunista, come dire, in maniera automatica, invece non lo è, allora ci vuole un partito che operi, che sia un punto di riferimento, che funzioni esattamente da un lato come strumento che disincaglia la classe dai rapporti sociali in cui è invischiata e ai quali chiede semmai miglioramenti parziali. Miglioriamo le condizioni, aumentiamo il salario, facciamo le piccole operazioni, e dall'altro lancia la classe in un'avventura che può andare male, infatti è andata malissimo, che è inventiamoci i siti politici, che è la tesi di Badiou. La politica è caratterizzata da che cosa? Non da un discorso rifondiamo la società, ma esattamente dall'invenzione di quelli che lui chiama siti singolari. Gli esempi sono quelli, sono la Comune di Parigi del 1870-71, sono i Soviet, sono probabilmente, lui pensa che siano i consigli operai, e sono poi alla fine le brigate rosse, non le brigate rosse italiane, le brigate rosse della rivoluzione culturale cinese. Si può discutere su questi esempi, sul valore che Badiou attribuisce loro. Quello che conta però che cos'è? È che il partito ha la funzione, e questo è l'atto politico che si potrebbe ipotizzare sul modello dell'atto analitico, di destituire le forme del legame sociale esistente. E poiché il legame sociale, qua non ci ritorno, è secondo me, secondo Lacan, nella modernità quello fondato sul primato del sapere, cioè il sapere che contabilizza e quantifica l'oggetto del godimento, l'oggetto causa del godimento, che lo trasforma in beni, per cui esiste il servizio dei beni, lo chiama Lacan, che è esattamente l'equivalente della biopolitica secondo Foucault, esattamente la stessa cosa. Poi ovviamente sono diverse le strategie e le soluzioni che offrono, ma il modello è quello. Avete un problema? Avete un gusto sessuale particolare? Non vi preoccupate, ci abbiamo subito pronto il gadget che ve lo sutura immediatamente. Questo è il consumo capitalistico. Siete omosessuali, non vi preoccupate, facciamo la legge che dice che vi potete sposare, potete adottare, facciamo tutto quello che volete. L'importante è che non mettiate mai in discussione il legame sociale. Anzi, per questo sembra che il legame capitalistico non sia un legame, perché sembra offrire chiunque faccia quello che vuole, ed è su questo che tiene le persone. Foucault su questo ha dato delle chiarificazioni, secondo me, fondamentali. Il potere moderno non reprime niente, ma costringe ciascuno di noi a interrogarsi e a fare una sorveglianza continua su noi stessi e su tutte le malanni che ci possono capitare, per cui incominciamo a prevenirle tutti, su tutte le deviazioni sessuali che possiamo avere, in modo tale che le normalizziamo in anticipo, in modo tale che non possano mai diventare dei problemi da qualche parte. Queste sono le... Perciò non sembra che sia un legame e sembra che inviti alla... ognuno faccia quello che gli pare. In realtà non è così, è esattamente il contrario, è il legame più duro che c'è, perché non offre nessuno scampo, se uno ci pensa. Quando qualcuno dice, molti analisti dicono, ma era meglio quando stavamo peggio, cioè quando c'era il padre padrone, perché almeno contro quello uno si poteva ribellare, non dice una cosa inesatta. Perché è chiaro che oggi la ribellione è molto più difficile, e quando uno verifica, e chi insegna nelle scuole lo sa, che le occupazioni studentesche sono fatte d'accordo con i presidi, ma è evidente che non c'è più nessun antagonismo da nessuna parte. Quando la tesi fondamentale è: io mi propongo di rompere il cordone della polizia, noi nel 68 sapevamo che se rompevamo il cordone eravamo ammazziati. E uno serio come me evitava accuratamente di trovarsi nello scontro con la polizia. Mi ricordi Woody Allen in Amore e Guerra? Ma è ovvio, insomma. E poi invece c'era quello, no, perché questi sono ricordi, c'era quello che arrivava all'assemblea dopo la manifestazione, perché la tecnica era semplice. Il corteo era autorizzato ad andare dall'università a Piazza Plebiscito. Poiché c'era la sede del movimento sociale da qualche parte, allora che qual era la tesi dei leader del movimento? Deviamo il corteo e andiamo a fare una manifestazione sotto la sede del movimento sociale. È chiaro che la polizia doveva evitare che il corteo si spostasse, ma uno sapeva che, cioè, lo forzava intenzionalmente il cordone. Qui invece forte il cordone e poi dico, ci hanno manganellato. Invece che quanto sono cattivi, come a dire, avevamo il diritto di andare dove volevamo, ma allora che l'ho concordato a fare prima il corteo, le strade in cui deve passare, cioè voglio dire, questa è la questione. Perciò io dubito dell'antagonismo, delle attuali forme dell'antagonismo, perché mi sembrano appunto incestuosamente colluse con coloro contro i quali dichiarano di volersi battere. Questo è un legame sociale fortissimo, è il più forte che si sia mai dato nella storia umana, è la potenza del capitale, quella vera. Allora, perciò bisognava rompere questo legame, si fa solo dall'esterno, cioè in posizione di estimità. Allora, quando io penso all'atto politico, io penso esattamente alla funzione del partito secondo Lenin, e questo secondo me c'ha in mente Lacan quando dice io sono il Lenin della psicoanalisi, rispetto a Freud. Cioè io non sono quello che aggiunge qualcosa a Freud, che modifica una posizione freudiana, io sono quello che trasforma la posizione freudiana, che era chiaramente di un'impoliticità totale. Lacan lo sa e lo dice pure, bisognerebbe scrivere un saggio sull'indifferentismo politico, perché è un fatto fondamentale questo. Perché c'è gente che non ha interesse alla politica? E io sono un esempio là, uno che è nato rivoluzionario, figicciotto micidiale, che è diventato uno che non gliene importa più niente. È un problema, non possiamo andargli a dire come tu non ti preoccupi della cosa pubblica, tu stavi dicendo ma a me non me ne importa niente della cosa pubblica, anche perché non esiste più la cosa pubblica, è una mera finzione. Perché esiste l'indifferentismo politico? E questa è secondo me una questione che Lacan si pone. Ora, bisogna fare in modo che Freud, che è una posizione intellettuale, vediamo di fare il Lenin rispetto a Marx. Marx non fonda un movimento che politicamente non significa niente e non ha avuto mai grandi significati. È Lenin che vince la rivoluzione, mica Marx. Marx non vince nulla, Marx sta lì e riconosce ogni volta la sconfitta e ragiona sul fatto che siamo stati sconfitti. Lenin è il primo che vince qualcosa, poi è andata male e sarebbe utile interrogarsi sul perché è andata male, ma in maniera seria, non in quella maniera banale con cui viene fatto o da fonti liberali, di conseguenza che sono interessati a dimostrare che non poteva andare che così, o anche da fonti dei comunisti attuali, quelli che sono gli eredi, i quali debbono, come dire, farsi una specie di verginità, dice no, non abbiamo niente a che vedere con questa storia, noi da sempre non eravamo d'accordo, che è un mistero, come va detto, stavano dentro, come facevano a non essere d'accordo. Allora, e la seconda questione, rispondo a Davide, qual è il sito singolare? Ora, i siti singolari storicamente dati sono dei siti democratici. È chiaro che questa è una parola complicata, è una parola difficile, ma ecco perché forse non ti è piaciuto l'ultimo saggio. Perché l'ultimo saggio tenta di dire che cos'è la democrazia. Usa Rancière, potevo usare anche una, l'occasione è stata, là in quel momento Rancière mi ispirava e ho usato Rancière. Ma il problema qual è? È che perché io penso che la democrazia riguarda la questione chiave di qualunque posizione comunista seria, che è l'estinzione dello Stato. Noi ci siamo dimenticati queste questioni perché oggi ovviamente il discorso è l'opposto. Ah, lo Stato non esiste più e bisogna ricostituirlo. Se voi leggete quello che viene scritto anche da sinistra, voi leggete questo, no? C'è una privatizzazione di qualunque cosa, non c'è più lo Stato è l'interesse pubblico, l'interesse generale, la cosa pubblica. Anche chi sostiene la teoria dei beni comuni, che ovviamente pensa che la proprietà pubblica non coincida con la proprietà dello statale, cosa che non sarebbe più praticabile dopo l'Unione Sovietica, chi vorrete che vada a dire che lo Stato deve essere proprietario delle industrie, mi sembra una cosa totalmente insensata, tuttavia continua a pensare questo, diciamo, mito dello Stato come appunto luogo dell'interesse. Ora, la tesi dei comunisti è la tesi che lo Stato va estinto. E come si estingue lo Stato? Utilizzando l'unica forma di governo che presenti nel proprio dispositivo la propria autodissoluzione, è la democrazia. La democrazia, basta leggere Platone, che era giustamente un reazionario ma intelligente, la democrazia si autodistrugge, questo è strutturale. E per questo che è importante capire cosa Lacan pensasse di Platone e della Repubblica di Platone. Su questo Badiou, una cosa che mi ha molto colpito, ha capito perfettamente la tesi di Lacan. Lacan dice: non è vero che Platone pensasse o assumesse questa prospettiva di uno Stato totalitario, perché quello è lo Stato. Dovremmo sempre ricordarci che nell'ipotesi dello Stato platonico non solo le donne sono in comune, perlomeno per i guardiani, e i bambini sono ovviamente affidati direttamente allo Stato, ma ci dovremmo ricordare una cosa fondamentale, che Platone teorizza che bisogna fare gli accoppiamenti giudiziosi, e cioè che i rapporti sessuali vanno totalmente organizzati e pensati in base a una sequenza numerica, che ovviamente significa, come io penso allo Stato migliore, io penso ai migliori accoppiamenti per avere la razza migliore. Cioè l'eugenia, l'eugenetica è in Platone. Chiunque fa questo ragionamento pensa automaticamente una cosa del genere. È una tesi di Popper. Eh? È la tesi di Popper. È la tesi di Leo Strauss, che a me piace di più di Popper. Cioè, no, te lo dicevo in maniera un po' provocatoria. Ho capito, non lo so. Ma io penso che il riferimento per me è Leo Strauss, che dice appunto la comunicazione indiretta, per cui Platone ironicamente descriverebbe un mondo che in realtà, contro il quale in realtà vuole mettere d'avviso le persone, che però è l'effetto della democrazia. Questo è il ragionamento di Platone. La democrazia, se non riesce a governare o a governarsi, a questo punto produce il suo con... Allora, questo vuol dire che nel dispositivo della democrazia c'è l'estinzione di se stessa come forma di governo, e dunque è l'unico dispositivo che accetta di estinguersi, gli altri vengono liquidati a un certo punto da forze che vi si oppongono. Ovviamente, come facciamo che la democrazia si estingua e contemporaneamente non si estingua? Questa è la scommessa della rivoluzione comunista, su cui è fallita la rivoluzione sovietica, su questa ipotesi di una democrazia che continua il processo di estinzione dello Stato senza ovviamente pervenire alla conclusione platonica, cioè di affidarsi all'uomo lupo, cioè a Stalin, detto in maniera molto banale. Questa è la questione su cui non siamo, il movimento non è riuscito ad andare avanti. Io credo che questo sia l'obiettivo. La posizione di Lacan secondo me aiuta in questa direzione, perché perlomeno indica, come già in Benjamin, la parte destruens, cioè noi dobbiamo dissolvere i legami sociali. La politica non è la ricomposizione di legami sociali che si siano sfilacciati, è esattamente il contrario, è il tentativo di dissolvere i legami sociali il più possibile. Questo è il processo di emancipazione. Dopodiché, come si fa a fare in modo che questo gesto, che è rivoluzionario in quanto tale, perché è rivoluzionario, questo vuol dire dissolvere i legami sociali dati, si istituzionalizzi e non si perda in questo processo di istituzionalizzazione inevitabile e necessario? Guardate che è una questione che un filosofo che non viene più studiato da nessuno, ma secondo me è fondamentale, che Sartre ha posto in Critica della ragione dialettica. Quando Sartre pensa a questo rapporto fra gruppo in fusione e poi resa burocratica, che era un modo per cercare di capire che diavolo era successo all'Unione Sovietica, perché quello era il suo problema, questo sta ponendo. C'è un momento insurrezionale in cui io distruggo le forme del legame sociale e ovviamente le sue espressioni politiche, è ovvio. Dopodiché c'è il problema di quali istituzioni vengono a sostituire quelle che sono morte. E come queste istituzioni evitino di ritrasformarsi di nuovo nella forma piramidale della statualità. Questa è la questione. È la questione che è rimasta intatta. Io non so quando è che verrà ripresa, perché ovviamente non è che io faccio il profeta. Penso che un lavoro sia questo. Cioè chiedere a Lacan che cosa si fa dopo, secondo me è un errore, non può dire cosa si fa dopo, perché dopo non è più compito dell'analista. L'analista può dire il gesto fondamentale, io lo faccio nell'ambito che mi riguarda, io dissolvo la scuola Perché la scuola, accidenti, secondo me è un luogo del legame sociale. Oltretutto la scuola in senso moderno, cioè la scuola analitica, cioè questo stesso luogo dove stiamo, può perfettamente diventare discorso universitario, ma niente vieta questa possibilità. Basta che a un certo punto, se questa scuola, questo luogo, diventa una scuola di formazione, la prima questione che si porrà sarà una gerarchia fra gli analisti. Ve lo dico da uno che non c'entra niente, perché, ma per leggendo quello che, cioè, sapere che esista l'analista di scuola, l'analista, cioè questa trafila, dove ovviamente c'è un comitato che, o comunque qualcuno che deciderà che uno da un certo momento in poi è analista della scuola. Su che basi viene fatta? Voi sapete, la PAS è il tentativo disperato di impedire questa trasformazione della scuola analitica in discorso universitario. Cioè, evitiamo di farlo. Io capitai una volta all'ICRES, c'era lei che faceva parte della commissione d'esame, e io pensai, oh mamma mia, e cercavo di capire dove stava la differenza. Perché poi ovviamente le scuole, dovendo rispettare la legge, sono obbligate a un certo punto a trasformare il momento in cui, per esempio, quella è arrivata, ha scritto la sua tesi di dottorato, quella che sarebbe l'equivalente, e in qualche modo gli debbono dare un diploma, cioè una carta che ha valore di legge, e la legge è dello Stato, non è del gruppo analitico. Allora questo signore avrà il problema che da un lato è chiamato ad autorizzarsi da sé, ma contemporaneamente c'ha un pezzo di carta che lo autorizza da qualche parte, cioè se al di fuori e al di là della sua cattiva intenzione, dell'essere buono o cattivo analista, ma se ha un problema di sopravvivenza, uscirà e andrà alla prima ASL che gli capita dicendo: guardate, a me mi hanno dato sto bando di diploma, mi volete assumere? E dovrà assumere le posizioni che saranno richieste dall'istituzione. E questo è il punto. Allora, quando Lacan dice è come una scuola ellenistica, appunto è come una scuola ellenistica che non deve diventare, cioè una scuola come quella di Epicuro, poniamo, che non deve diventare in nessun caso un'università, ma nella modernità è difficile evitare questo rischio. Fare altre cose, gli analisti molto spesso vivono non con il lavoro nel loro studio, ma come si sa, per incarichi o nelle ASL o negli ospedali o nell'università. In Francia questo è molto più diffuso, perciò forse sono più consapevoli di queste commissioni continuate. Ma appunto, questo è il problema. Allora niente impedisce che una... E perciò Lacan le scioglie, ovviamente gettando nella costernazione questi poveracci che stavano appresso a lui e da un giorno all'altro vedono dissolte tutte le posizioni che avevano in qualche modo conquistato. Perché quando io ho saputo certe storie interne all'ICRIS, che non parlo perché non mi va il caso, ma mi ha molto colpito che c'è stata una frattura sul fatto che uno non era stato, aveva avuto il posto di analista di scuola o una cosa del genere, che è stata una delle cause, da quello che io ho capito per i racconti che mi sono stati fatti, di una rottura improvvisamente di una parte. Questo vuol dire che c'è un problema grosso all'interno, e le scuole appunto rischiano costantemente, questo vale per qualunque scuola, perché poi io penso che destino alla scissione delle scuole, dei gruppi analitici dipende da questo a un certo punto, cioè dalla difficoltà, dal fatto di dover sfuggire comunque a qualche forma che viene percepita, vero o falso che sia, come una forma di sclerotizzazione. Lacan lo faceva lui direttamente, aveva questa autorità per poterlo fare. Allora, ripeto, l'atto analitico è un atto di destituzione, di dissolvenza, di scioglimento dei legami, non può trasformarsi in una indicazione concreta su allora quale legame bisogna costruire, perché sarebbe prescrittivo automaticamente, deve lasciare il soggetto nella sua libertà di, appunto, in maniera assolutamente autonoma, di scegliere come riannodare. Sul piano politico si può fare una trascrizione di questo genere, c'è un gruppo che è il partito, che funziona esattamente come una seduta, un luogo di analisi, in posizione di estimità rispetto a ciò su cui interviene, e le forme istituzionali sono quelle inevitabilmente delle forme ultrademocratiche. Per questo Baggio non è più d'accordo con Lacan su questo piano, perché per lui la democrazia è un nome del capitalismo stesso, e questa è la sua posizione, ovviamente che possiamo discutere. Io credo che sia sbagliata questa posizione di Badiou, e che invece appunto la strada sia quella delle istituzioni democratiche, della democrazia dal basso, chiamatela come volete, gli esempi sono quelli, sono i consigli, che sono luoghi della autoestinzione delle forme di governo. Come andare avanti su questa spinta iniziale in cui si è dissolto un legame sociale precedente è appunto il compito che resta e che non possiamo chiedere ovviamente a Lacan o agli analisti, perché non possono dircelo loro. Scusate, ho parlato moltissimo. No, insomma, tra le cose che diceva Bruno, effettivamente c'è questo punto della questione dello Stato, io la tradurrei proprio in questi termini, no, quello che tu dicevi, c'è una domanda di Stato, cioè proprio c'è una domanda di presenza dello Stato. Infatti, sulla base di quello che dicevo, riflettevo su una cosa che pensavo qualche giorno fa, per esempio di fronte a queste calamità naturali, no, di cui accade qualche cosa, e la prima cosa è che lo Stato non è stato in grado di garantire, quasi che lo Stato fosse in questa domanda di Stato l'altro dell'altro. No? Cioè quasi, diciamo così, a dire non ci deve essere nessun buco nell'altro, cioè lo Stato è questo sostanzialmente. Ecco, allora io mi volevo fare questa considerazione, non so se qualcuno del pubblico qualche questione, cioè, sì, vorrei varie questioni, forse perché non ho una formazione filosofica, non ho capito sì. Bene. Allora, prima di tutto si è parlato di questa supremazia dell'università anche sulle istituzioni economiche. Ora non lo so, come persona della strada, mi torna nuova, anche perché siamo in un'epoca in cui sono cadute le ideologie, la destra e la sinistra paurosamente si sono avvicinate. Poi, per quanto riguarda Mario, che diceva c'è la ricerca del cuore, insomma, dell'altro dell'altro, io penso che la gente cerca, è vero, quest'altro dell'altro, perché è un anelito che abbiamo tutti quanti, evidentemente, però lì ci sono delle responsabilità precise, cioè le calamità naturali, è vero, esistono, ma esistono i danni perché ci sono state delle persone che hanno rubato, che non hanno provveduto a fare delle determinate opere pubbliche, per cui questi risultati non ci sarebbero stati. Poi un'altra cosa volevo dire, per quanto riguarda la psicanalisi, che naturalmente deve sciogliere, cioè naturalmente dobbiamo far sì che i nostri pazienti abbiano una loro soggettivazione, e invece la necessità della politica, cioè se ho capito bene che anche la politica dovrebbe seguire, diciamo, questa strada, però ci sta da fare un'osservazione, secondo me, che il singolo nella società, e mi sembra che questo l'abbia detto anche Sartre, vale poco. Cioè un operaio che si presenta dal signor Fiat perché è stato licenziato non ottiene niente, ma se l'operaio invece si associa e questo associazionismo trova nelle parole di Camusso, di Landini, tanto per fare un esempio di persone conosciute, la sua espressione, può darsi che ottenga qualcosa. Allora, secondo me, è chiaro che ci debba essere uno scioglimento da quelli che sono i legami individuali che attanagliano dentro di noi a partire dall'inconscio, ma è chiaro che non ci può essere, già che viviamo in una società, uno scioglimento di altri legami, che ci piacciono. Un'altra cosa volevo dire a questo proposito, sulla questione per esempio degli omosessuali, perché se io da analista, diciamo, autorizzo, tra virgolette naturalmente, la scoperta del desiderio individuale anche di marchio omosessuale, poi ed è un bene, perché una persona può fare una sua scelta, diciamo, scelta seppure comandata dall'inconscio, ed è un bene, perché la società fa un male se autorizza il matrimonio tra omosessuali. Allora, secondo me, questo discorso, ma concludo, sono brevissimo, questo discorso fra politica e psicanalisi è un discorso che deve essere fatto in maniera molto circostanziata, perché può dare origine a delle derive reazionarie. Volevo dire velocemente una cosa, sempre, diciamo, sempre più rimpicciolita, diciamo, nel mio angolo, dopo il discorso di Bruno, nel mio angolo, diciamo così, analitico. Però voglio dire che secondo me bisognerebbe fare una distinzione tra il fare politica e l'essere politico, perché in questo caso io non mi sentirei di essere, diciamo, d'accordo con Bruno quando dice che Freud era, diciamo così, l'impolitica per definizione, perché io credo che se c'è stato, diciamo così, un dissidente al discorso, diciamo così, corrente nel suo secolo, questo fosse proprio Freud, e dunque in qualche modo è molto forte, diciamo così, guardare a questa differenza. Non posso sostenere, diciamo, filosoficamente questa cosa, che non sono assolutamente in grado, però mi è venuto come associazione che una cosa è l'essere politico e un'altra cosa è fare politica, e dal mio punto di vista Freud, diciamo, era fortemente politico nei suoi atti. Questo mi è venuto così. Secondo, io penso che la coalescenza sia sicuramente tra il discorso universitario, che è razionalizzante, diciamo, in qualche modo, questo credo dicesse anche Bruno, e il discorso della scienza, che è giustificante di ciò che avviene all'interno del discorso del capitalista, che io insisto, probabilmente Bruno, io me lo guarderò, perciò ho detto che è stimolato il tuo libro, però Lacan lo scrive differentemente, questo è un fatto, perché non è che io l'ho interpretato, lui lo scrive differentemente, quindi è chiaro che possiamo poi interpretarlo come cavolo ci pare, ma di fatto lo scrive in forma diversa. Io quando dicevo il fatto della barra, evidentemente, certamente non pensavo a un represso, anche perché io penso che rimosso e inconscio, almeno inconscio strutturato come un linguaggio, quello dei significanti, siano assolutamente la stessa cosa. Per quanto riguarda, per esempio, tu dicevi, hai fatto la cosa del magnum, no? Ecco, io direi che va molto bene quell'espressione di perversione generalizzata, cioè, perché... Vogliamo dire una cosa, in questo senso mi metto nell'angolo dell'analista, i discorsi Lacan li fa da analista, cioè e descrive le posizioni di un soggetto nel legame, punto e basta. Poi dopodiché che possiamo usare politicamente, possiamo dire era il 68, non è un caso, perché è ovvio che ci sono dei punti, diciamo così, di contingenza, di evidenza, però lui li chiama effettivamente, diciamo, le posizioni, cioè lui dice, no, una persona non è sempre un analista, non è sempre un professore universitario, non è sempre così, ha varie posizioni, e naturalmente quello che gli interessa di più è il discorso dell'analista. Io stessa dicevo prima, e faccio una differenza tra il Lacan del 53, che in qualche modo è sedotto dalla padronanza perché invita alla verità, e quello, diciamo, di dopo, che potremmo secondo me sistemare un po' meglio, diciamo così, in attualità, scusatemi se è un po' più nicciana, cioè di stare con un piede dentro e un piede fuori, piuttosto che stare lì a richiamare, diciamo così, no, come fa nel 53, che pure è una bellissima citazione, io la uso moltissimo. Detto questo, per quanto riguarda l'atto, che cos'è l'atto analitico? L'atto analitico è la psicoanalisi stessa, e dunque è ciò, diciamo così, che ci si aspetta, diceva Fulvio, da uno psicanalista, anzi lo diceva per la verità Lacan, non Fulvio, ma lo citava spesso Fulvio, quindi fa piacere ricordarlo, cioè è ciò che ci si aspetta da una psicanalista, l'atto analitico, poi è giusto l'orrore eccetera, è un po' quello che dice Freud, il salto del leone, cioè che qualche volta bisogna saltare, poi certo la gazzella la puoi non prendere, qualche volta la puoi prendere. Ora, l'ultima cosa, avete citato, diciamo così, innanzitutto penso che bisogna chiarire bene che cosa intendiamo per jouissance, lo dico in francese perché effettivamente è un termine che francese forse, diciamo, significa un po' meglio quello che, come viene tradotto, perché il godimento in italiano effettivamente è molto ambiguo, perché per Lacan è il sintomo, punto e basta, eccetera. Per esempio, anche la differenza del godimento fallico, no, il godimento fallico di cui parlava è un godimento legiferato, cioè è un godimento ritagliato nel desiderio, punto. Non è il godimento e poi no, è un godimento ritagliato nel desiderio. Ancora, intendiamoci, ma che cos'è la mancanza a godere? È l'alternativa alla mancanza all'essere, cioè qualcosa che non ha più a che fare, diciamo così, con la legiferazione del godimento. Dunque, diciamo, è un al di là del principio di piacere. Lui la chiama mancanza a godere, che effettivamente fa proprio la differenza tra il primo, il secondo, quello dello strutturalismo, e addirittura il terzo Lacan. Questa è una cosa che pure volevo dire. Poi, per quanto riguarda, diciamo così, avete detto il soggetto supposto sapere, è esattamente il sapere senza soggetto, è il rovescio del supposto soggetto, il soggetto supposto sapere. Quindi non è la destituzione soggettiva. L'ultimo Lacan non parla affatto di destituzione soggettiva, parla, un po' come diceva Bruno, diciamo, in analisi si arriva con il sintomo, ma dice Lacan, si va via con il sintomo con la H, e lo chiama sintomo fondamentale. Lo chiama fondamentale perché lo sostituisce al fantasma fondamentale, dunque a quella che era la traversata del fantasma. E quindi questo pure, insomma, faceva piacere dirlo, perché il sapere senza soggetto ha più a che fare, anche il sintomo, hanno più a che fare in qualche modo con il godimento, e il sintomo ha a che fare anche con la sublimazione. Cioè, l'ultimo, diciamo, Lacan cambia lo statuto della sublimazione, che non è più la sublimazione ideale, cioè taffa grandi o, ma è ad usum delfini, cioè essere un pochino più bellini, cioè aggiustarsi in qualche modo. Tant'è vero che lui poi trasforma una frase ambigua del saperci fare con il sintomo, con il saperci essere, che è una cosa un pochino diversa. Per quanto riguarda il discorso universitario, io penso che nessuno riesce davvero a sottrarsi. Lo stesso Lacan, quando parla, dice sempre che è un analizzante. Lui dice: quando io parlo, faccio i seminari, quando io sto in televisione a parlare in televisione o alla radio, dice, sono nella posizione dell'analizzante. Ma perché deve chiarire questa cosa? Perché lo deve fare? Perché deve prendere, diciamo così, la distanza, ovviamente, da una posizione che sinceramente io non penso che possa essere, diciamo, come dire, elusa semplicemente nominandosi analizzante. Detto questo, ultima cosa, nella nota italiana, per esempio, tu dici dissoluzione, d'accordissimo, io sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto, però lui nella nota italiana, quando dice sì, è successo questo, è successo quello, però comunque resta il tripode, dice, fino a nuovo ordine. Dunque ancora lui si pone nella posizione di comando, perché io penso che sia effettivamente molto complicato. Per il resto sono d'accordissimo, l'ambiguità in cui porta la legge Ossicini, la posizione, diciamo così, diciamo, cerchiamo di far ruotare un po' di più le varie posizioni e non cristallizzarci in una, cioè non essere sempre nella posizione del discorso universitario o diciamo nelle altre, ma come dire, è molto complicato, e lui su questo effettivamente ha ragione. Tant'è vero che lo stesso Lacan, scusa, quando nel rovescio della psicanalisi, no, proprio nel capitolo sul campo lacaniano, si interroga sulla padronanza, lui dice, io ci provo, questo seminario ha per risultato che non ha risultato, che non è conclusivo, è un'ipotesi, perché è molto difficile anche per il discorso dell'analista, che lui dice l'analista è uno scartino, cioè una merdetta, deve stare nel punto della piccola A, poi lo metterà, quindi come funzione, no? Poi lo metterà nella posizione del santo, no? Tu stesso credo che lo citi nel tuo libro questa cosa, questo pure mi pare che lo dica in televisione, cioè quindi cerca delle possibilità per l'analista, perché le trappole di altri, diciamo, discorsi stanno dietro l'angolo, e dunque anche l'Icles di Napoli non può sfuggire a questo, no, dietro l'angolo. Sì, ci stanno domande dal pubblico, anche Davide voleva dire qualcosa, come diamo un attimo la parola a loro. Prego. Vabbè, prima di tutto complimenti a Bruno Moroncini per questo testo, insomma, che mette un po' d'ordine a questo dibattito europeo, direi, sul mito politico di Lacan. Io penso sia molto importante, perché anche, insomma, ci sono delle divagazioni immaginarie un po' in questo dibattito che si svolge in Europa, penso alle posizioni della scuola di Lubiana, questo tentativo di correggere Lacan attraverso Hegel e Hegel attraverso Lacan per tirare fuori un sapere, insomma, che possa permetterci di trasformare il mondo, l'economia globalizzata. Quindi complimenti, perché almeno, insomma, c'è questo tracciato del quale è possibile sviluppare una ricerca. Mi verrebbe da fare qualche osservazione sull'altro uso di Lacan, cioè sull'uso poi della psicanalisi per la decostruzione del discorso filosofico, ma occorrerebbe un po' di tempo e non lo faccio. Però vorrei riflettere su una, chiederti su questa questione dell'atto politico e dell'atto analitico. Naturalmente ci si muove da una dimensione di rapporto intersoggettivo duale a una dimensione, diciamo, che mette in gioco il destino di una società, e quindi c'è questa differenza fondamentale. Ma l'atto politico, perché penso sia importante così che dice? Perché innanzitutto ci costringe ad assumere un posizionamento nella contemporaneità, cioè che faccio io dinanzi a questa situazione. E quindi la valutazione dell'atto politico diventa importante per posizionarci. Ora è chiaro, io penso che sia molto chiaro che qualsiasi atto comporta una dose di rischio enorme, diciamo. Perché? È perché l'atto non solo mette in discussione tutti i legami sociali, ma il linguaggio analitico potremmo dire taglia un possibile annodamento o l'annodamento esistente, insomma, le varie dimensioni di funzionamento della società. E quando avviene questo taglio dell'annodamento, si apre la possibilità di cascare, di scivolare in una voragine di reale. E allora è questa la mia domanda, insomma, come ci si posiziona oggi? Come si posiziona la via delle istituzioni, per esempio? Come ci si posiziona dei servizi sanitari, della scuola, negli altri dispositivi disciplinari? È questo perché l'atto politico, così come l'hai esposto tu, potrebbe favorire una posizione, ok, insomma, ci va tutto bene, purché si distrugga tutto. Questo è un problema che ci soffoca dal punto di vista poi dell'emergenza del reale, che questo posizionamento metterebbe in gioco, insomma. Salvatore, sì. Allora, io volevo solo qualche delucidazione o magari anche una vera e propria proposta di risposta rispetto a quello che vedo come il paradosso fondamentale di questa giornata, ovvero si è parlato di un discorso dell'università, si è parlato del potere. Io, parlando del potere, non posso fare a meno che pensare ingenuamente a come è formato. C'è qualcuno che comanda o che, come ci vuole, prende il potere, ma il potere è legittimato da un qualcuno che ti dà appoggio senziente, quindi coscienziosamente o in maniera tacita, oppure di chi ignora completamente quello che sta accadendo. Stessa cosa per il colpo di Stato. Il colpo di Stato lo vedo come uno di quei reati che non può essere punito finché non c'è un altro colpo di Stato. Per la stessa cosa, per fare un colpo di Stato c'è bisogno di qualcuno che possa dare appoggio a chi compie questo colpo di Stato, così come ci deve essere un qualcuno che attraverso un'omertà avalla il colpo di Stato perché pensa di poter stare bene. Allora io il paradosso fondamentale di questa giornata lo riscontro nel fatto che, come può la psicoanalisi pensare di fare qualcosa contro questo Stato, magari facendo un colpo di Stato, qualora sogni di fare un colpo di Stato, nel momento in cui propone una clinica laddove non insegna, laddove non propone un indottrinamento così come sta succedendo con le altre discipline? E come può la psicoanalisi fare un qualcosa nel momento in cui non riesce a insediarsi bene sul territorio, come lei ha fatto ad esempio con i partiti politici che sono, come si è detto, l'avevo segnato prima, dove c'era una presenza sul territorio, ecco. Devo dire qualcosina. Facciamo parlare. Prego, Vincenzo. Ho ammirato molto questa sua dissertazione su Lenin, però io volevo chiedere questo, cioè la questione sartreana in fondo poi fa scivolare il problema del rapporto partito-stato sulla questione del movimento, della staticità, gruppi di fusione o irrigidimento. Però il problema dell'estinzione dello Stato, che è un problema che affrontiamo anche i socialisti, perché anche Proudhon, anche Saint-Simon in fondo pensano che il diritto sia una sola struttura medievale che poi con la società borghese e con la società inglese c'è cambiato. Il problema della rivoluzione russa, poi è il problema dell'estinzione dello Stato, è un problema del che cosa ne facciamo poi dell'universalità dello Stato. E di fronte a questo poi ci sono diverse strategie, che sono quelle liberali, quelle comuniste, quelle socialiste, del rapporto e della gestione universale particolare del rapporto partito-stato. E questa è una questione di fronte al quale il leninismo non so che risposta ci dà poi fondamentalmente. È anche l'estimità, è anche l'atto poi inteso come estimità di regolazione poi della questione del rapporto universale particolare. volevo fare tre osservazioni. La prima, prima mi sono moderato, adesso invece discutiamo in maniera coraggio. A me questa faccenda prima della... hai pochissimi minuti, uno e mezzo andiamo via. No, no, ma sarò breve, che ore sono? Le 2:25. Vabbè, sì, posso anche tacere. No, no, no, no, dai, vai, dici. No, perché ho visto che hai preso una direzione che mi preoccupava. No, no, voglio soltanto dire tre cose. La prima è dire adesso di petto che io trovo che è anti-lacaniana questa posizione filosofica di Bruno, e farò semplicemente una serie di equazioni molto semplici. Tu hai incominciato a dire che la filosofia deve smettere di dettare la verità alla politica, e io sono totalmente d'accordo. Trovo che tu assumi una posizione filosofica come? Proponendo un ideale non positivo ma negativo di atto politico come scioglimento dei legami sociali. Ora, al di là del fatto che io poi ho sempre bisogno, quando leggo un teorico politico, di avere poi degli esempi concreti, e ne farò poi subito uno dopo, di che cosa può essere un atto politico di carattere psicoanalitico concreto, e trovo che questa idea di sciogliere i legami sociali come ideale, punto di arrivo, è profondamente antianalitico, è antilacaniano, antipsicoanalitico, ed è antilacaniano. Perché? Perché seguo semplicemente una serie di equazioni. Il discorso è un legame sociale, definizione di Lacan. L'inconscio è un discorso, è il discorso dell'altro. Sciogliere i legami sociali vuol dire sciogliere il discorso, vuol dire sciogliere l'inconscio, cosa che non è auspicabile, è che non si può fare. Questo è il punto della psicanalisi, questo è il primo punto che volevo fare. In tutto questo mi sembra che tu sei poi tra l'altro molto più vicino a Žižek, per non dire a Negri, con questo discorso sulla democrazia che si autoscioglie, dal basso si autodissolve. È molto simile ai discorsi di Žižek, ed è molto simile, secondo me, anche converge verso una certa, verso un certo negrismo. Ora, a me non convince nemmeno questa insistenza su Lacan era un liberale, perché bisogna capire che cosa vuol dire liberale. Liberale è capitalista, il liberalismo è la forma ideologica, la forma discorsiva che prende il capitalismo. E farò un esempio molto semplice. La signora diceva prima, ma perché non sostenere anche il desiderio degli omosessuali, non timbrare con questo come bene, eccetera. Questo è, diciamo, un discorso che è dentro il discorso dei diritti, che è dentro il discorso delle democrazie liberali, eccetera. Ora, prendere sul serio la psicanalisi, a mio avviso, vuol dire essere veramente contro, e vuol dire essere anche parzialmente obliqui rispetto a questa prospettiva. Le faccio un esempio molto concreto. Ci sono due sentenze, uno della Corte Europea e uno della Corte Suprema tedesca, che hanno sancito un diritto nuovo di recente, ed è il diritto all'incesto. Sono due fratelli, un fratello e una sorella, che hanno rivendicato il proprio diritto di fare una famiglia. E l'hanno spuntata, la stanno spuntando, sia a livello di Corte Europea sia a livello di Corte Tedesca. Ora c'è un limite a questo processo, ed è per questo che Lacan diceva che il capitalismo non reggerà. Fatemi finire e poi sarò brevissimo. Il capitalismo non reggerà, non per ragioni astratte, non per processi economici, non reggerà per queste ragioni, perché questa è la direzione. Per Lévi-Strauss, giusto cito un nomino così a caso, il divieto dell'incesto è il fondamento di ogni legame sociale. Distruggere questo divieto, come sta accadendo, vuol dire distruggere il legame sociale. Dissolvere realmente il legame sociale vuol dire andare verso una situazione in cui tornerà qualcosa dal reale. È la citazione che vi leggevo prima. Posso fare la degenerosca catastrofica? Finisco, poi vi lascio. La degenerosca catastrofica, che Lacan pesava le parole che diceva, è realmente catastrofica. E la psicanalisi è l'unico punto di prospettiva in cui questo diventa visibile. Un atto politico analitico è un atto, per esempio, molto semplicemente, in cui un gruppo di analisti a livello locale, nazionale, europeo prende posizione su queste cose. C'è un silenzio assordante. Qualcuno di voi sapeva di questa cosa? No. Questa cosa, a mio avviso, sulla base dell'apprendimento della psicanalisi, è di una gravità estrema. Un ultimo punto. L'atto analitico non è un atto di risoluzione. L'atto analitico è definito in maniera molto chiara da Lacan. È un taglio. È un taglio prodotto, per esempio, su strutture topologiche che produce un'altra figura topologica. È un taglio che si fa in un certo punto e, come diceva giustamente Francesca, la psicanalisi è una clinica. Non c'è nessun punto di vista astratto. Cioè, ogni volta noi si ha a che fare, in quanto analisti, voi avete a che fare con soggetti che non sono soggetti con la S minuscola di cui si occupa la filosofia, sono soggetti o nevrotici o perversi o psicotici. Lacan è molto esplicito, ancora nell'Etourdi, siamo nel pieno degli anni 70, adesso non scendo sulla questione dell'inconscio reale, il taglio è diverso ed è fondamentale che sia così, perché non si può effettuare un taglio, lo stesso taglio che si effettuerebbe con due giri, come dice Lacan, su un nevrotico, lo stesso taglio non deve essere fatto sul perverso. Perché questo sul soggetto perverso non è una connotazione morale, è una categoria clinica. Perché questo produrrebbe effetti devastanti, oppure va semplicemente a vuoto. Ora, questo vuol dire che l'atto analitico non è semplicemente dissolutorio. Alla fine, quello che emerge e che affiora e che si riarticola è la struttura stessa della soggettività, cioè un nastro di Möbius. Sono possibili atti analitici quando il 68 fu qualcosa che, e finisco qui, che mostra anche perché la psicanalisi è il rovescio della filosofia, il rovescio della psicanalisi è la filosofia, perché l'atto analitico che produce un taglio produce un desetro, un disessere. Questa è una nozione che compare ancora negli anni 70, ancora nelle Turdi. Il soggetto si separa dall'oggetto a piccolo, in quanto l'oggetto a piccolo supporta l'essere del metro, M apostrofo L. Cosa successe nel 68? Perché il 68 è l'unico evento veramente politico del dopoguerra? Che l'essere dell'università, quello che chiama esplicitamente l'oggetto a piccolo dell'università, cioè gli studenti, si separarono dall'università e l'università senza studenti affiorò nel suo disessere. Perlomeno per una breve parentesi. È possibile che questo si ripeta? È possibile che questo... A mio avviso non soltanto è possibile, sarà necessario. Perché? Perché il discorso del capitalista o diciamo il discorso liberale, eccetera, non regge per le ragioni che dicevo. Non regge, quindi succederà qualche cosa. Scusate, lo sfogo. No, vabbè, sì, tolto l'aspetto di sfogo, diciamo, però è un complicato poi dopo riprendere. Io volevo citare questo caso che tu hai citato, diciamo, perché lavorando al policlinico io mi occupo di transessualismo, per esempio, no? E quindi faccio certificazioni, seguo il dibattito della Corte Europea e conoscevo questo caso. Ebbene, questo caso qua va proprio nella direzione contraria a quella che dici tu, perché quando un fratello e una sorella si sposano non dissolvono affatto i legami sociali, anzi cronicizzano il legame familiare fino al punto tale che quello è l'unico legame. La psicoanalisi è fatta perché tu, quando fai un'analisi, procedi per le disidentificazioni immaginarie e simboliche, e a volte assistiamo a, nell'analisi, diciamo così, al fatto che quando un paziente cambia posizione, immediatamente tutta una situazione si riverbera sulla famiglia, qualcun altro manifesta sintomi, qualcun altro comincia a stare male. L'esempio che tu hai portato è proprio invece non il fatto che quando tu superi la barriera dell'incesto hai sciolto i legami sociali, tu hai fatto di quel legame sociale, cioè la cellula del legame sociale familiare, l'assoluto del legame sociale, cioè è proprio agli antichi. Quindi quando mi hanno chiesto un parere su questa situazione che stavamo discutendo proprio, io ho detto che non era affatto una rottura dei legami sociali, anzi era esattamente, diciamo così, l'incesto andava proprio in questa direzione, perché quando un fratello e una sorella si sposano e mettono al mondo dei figli è il dominio del familismo, e resterebbe da chiedersi che cosa sta accadendo quando accade una cosa. No, scusami. Voglio dire questo, l'analista è un taglio, ma quale taglio è? Perché questo è un altro punto importante, poi voglio dare la parola a Bruno, che è lui. Cioè, l'analisi è fatta perché ci si disidentifica dalle forme immaginarie e simboliche, non perché, diciamo così, andiamo a costituire. È chiaro che poi dopo si fa anche, accadono che i legami si ricostituiscono, poi si sciolgono, poi si ricostituiscono e poi si sciolgono, ma l'importante è che non c'è mai nessuna pietrificazione o mineralizzazione di questa identificazione, perché questo è il punto. Però voglio dare la parola a Bruno. Scusa, dico solo velocemente una cosa perché mi urge come a lui, ma scusami, ma il legame sociale di cui parliamo non è il fatto che, scusami Mario, ma che quelle sono marito e moglie, ma è l'assunzione dell'oggetto piccolo A, il quale a sua volta è l'assunzione della castrazione, che a sua volta è il fatto che sei nella legge. Dunque un legame sociale è quello. Quello che diceva lui invece io lo trovo, sono abbastanza d'accordo, perché non è che perché sono sposati e fanno famiglia che sono nel legame. Allora scusami, anche le sorelle Papin, cioè no, sono fuori legame perché sono fuori dell'assunzione della castrazione. Questo è, per questo quanto è mi riguarda, il legame vero di cui parlano i discorsi. Ce l'ha fuori dal legame tutti quelli che stanno fuori dalla castrazione, che è una posizione. Beh, certo, è un legame diverso. Non è che li butto politica sulla follia, per esempio, sono d'accordo che è fuori legame. Ma dipende dal butto fuori da nessuna parte, semplicemente da questo giochino, diciamo, di ingegno lacaniano. Allora, devo dire che queste presentazioni sono le uniche che funzionano veramente, primo perché c'è uno scontro fra coloro che mi presentano, ma soprattutto perché alla fine si sono polarizzati contro colui che veniva presentato. Hanno dichiarato entrambi che non sono d'accordo su niente di quello che hanno detto. C'è soltanto, soltanto un fortissimo narcisismo e un grande esibizionismo mi rende possibile sopportare il fatto che le due persone a cui ho detto mi sta presentando sono partite, c'era una grande libro importante, dopodiché alla fine si sono scatenate dicendo guarda, ma proprio schifo sto libro, è proprio una merda, dobbiamo buttarlo. Vabbè, detto questo, che mi sembra divertente assai e sono molto contento di essere argomentata, allora io credo che ci sia dei equivoci o i punti di difficoltà, perché non è che mi metto a rispondere alle singole cose, altrimenti qua facciamo notte, ma io ho l'impressione che ci siano due cose sulle quali evidentemente abbiamo opinioni diverse e si giocano concetti diversi. Allora io provo a dire quello che io penso io di due cose: la politica e il legame sociale, perché mi pare che poi è su questo che si scatena o si è scatenata la discussione. Allora, io non credo, il termine politica io lo prendo quasi nel senso della tradizione, anche della filosofia politica, che poi non è che sia una schifezza, quando uno mette in evidenza un aspetto sta solo perché sta forzando il discorso intenzionalmente per far emergere una questione, dopodiché figuriamoci o la teoria politica, perché ci vuole una necessità della teorizzazione, io non la stavo minimamente negando. Quando dico, io ripeto quello, forse ho detto male, quello che dice Badiou. Badiou sostiene la tesi che esistono quattro procedure di verità: una è la politica, una è l'arte, una è la scienza e l'altra è l'amore. E nega alla filosofia il compito di dare di ciascuna di queste quattro procedure una chiave interpretativa, luogo di fondamento. Io non l'ho fatto, però nel libro è spiegato questo passaggio, perché comunque è molto serio, dunque va preso in considerazione, per cui la filosofia è il luogo in cui le verità prodotte dalle quattro procedure, che ovviamente sono assolutamente singolari e non hanno in partenza un legame fra di loro, la filosofia è il campo della compossibilità, cioè di mettere insieme e di far diventare un discorso unitario tutto questo. Lo fa facendo un discorso che io trovo molto chiaro con Platone, per cui io non sto negando l'importanza della filosofia politica. Quando dico la filosofia politica pretende dettare la verità alla politica, lo intendo nel senso con cui lo fa Badiou. Poi si può non essere d'accordo con Badiou, questa è un'altra questione, era per chiarire qual era la posizione che assumevo io. Cioè la politica va di fatti suoi, questa è la tesi, in tutti i sensi, male e bene che vada, cioè, perché si può anche avere la politica nazista, per cui non è che politico, il guaio nostro è che politico lo facciamo diventare un termine, questo sì, ideale, come se fosse di per sé la bontà, no! Perché uno posso occuparmi del bene comune provocando lo sterminio degli ebrei. Non è vero che Hitler non si occupa del bene comune, si occupa del bene comune di quelli che lui ritiene gli ariani, che lui deve difendere da un pericolo e un nemico, e questo fa. E non è differente da qualunque politico di questo mondo, perché su questo Lacan secondo me è chiaro, chiunque sia, che sta nella posizione del sovrano, dice: lavorate per i desideri, c'è tempo, ripassate un'altra volta. Questo lo sta nel rovescio della psicoanalisi, l'ho sempre interpretato come una chiave di comprensione della posizione lacaniana. Per questo Lacan è antistatalista. E poi lo Stato non è il legame sociale, scusate, anche no, questo. Infatti, questo è e questo è un problema, non è il legame sociale, lo Stato è una delle forme storiche che è stata, tra altre cose noi ragioniamo sullo Stato moderno, che è una delle possibili infinite varianti delle forme della sovranità, perché c'è l'impero, ci sono altre cose, c'è una lunga storia molto complicata. Comunque, per politica io intendo semplice non il fatto che un discorso ha degli effetti sociali. Allora, io sono stato da sempre contrario all'idea che il privato è politico, perché che significa che il privato è politico? Cioè, che vuol dire? È come diceva Davide, è logico, una psicologia individuale è automaticamente una psicologia sociale. Perché? Perché il discorso dell'inconscio è il discorso dell'altro, e di conseguenza per forza di cose qualunque cosa io faccio, anche quando le attribuisco a me, in realtà sono effetti di catene che mi attraversano. Questa che in questo senso probabilmente Lacan diceva l'inconscio è politico, ma la politica di cui io sto parlando e di cui parliamo qua non è questo semplice riconoscimento che qualunque cosa faccio si iscrive all'interno di una dimensione che non è più soltanto la mia ma è individuale. Per cui da questo punto di vista, e qui ha ragione Badiou, quando Badiou dice quello che manca a Lacan è che Lacan non scrive il che fare, io credo che lui abbia perfettamente capito qual è il problema. Cioè, bisogna scrivere il che fare, quello vuol dire far politica, non semplicemente perché ciò che faccio in qualche modo si riverbera da qualche altra parte, ha in relazione con altre cose, ma questo è scontato, perché questo non ci fa uscire dall'ambito sociale. La politica, per quanto mi riguarda, nell'unica accezione che da sempre nella storia occidentale, che è l'unica che inventa la politica, perché è l'unica che inventa le città, perché non esiste politica nel mondo cinese degli imperi, esiste politica a partire dall'Atene del IV-V secolo. Quella è la politica. Che cosa è? È che dall'esterno io decido come si fa una società. Che poi lo pensino i filosofi e pretendano di saperlo loro, o che invece questo sia il prodotto autonomo di una procedura di verità che è la politica, resta fermo che la politica è questo. E non è senso parlare in nessun altro modo. È la decisione che prende un gruppo umano, dei singoli, qualche volete, che ha la forza di dire: io voglio questa società così com'è, non è quella che deve essere, la voglio cambiare. E di conseguenza la prima cosa che fa chi fa politica è scioglie il legame sociale dato, altrimenti non fa politica, amministra. Questo lo dicono tutti i teorici della politica contemporanei, con i quali secondo me ha senso ragionare. Dicono che bisogna rompere il legame sociale. Perciò politica per me è questo, cioè è la decisione contro la società, contro i legami che si sono dati, contro le tradizioni, contro il fatto che è sempre così che si fa, perché non continuiamo a farlo. Ma anche contro l'idea che, poiché a me io desidero sposarmi mia sorella, io me la voglio sposare. A parte che ha ragione Mario, sono convinto che quello è il rafforzamento del legame sociale. È l'arresto al complesso fraterno di cui parla Lacan nei complessi familiari. Cioè è praticamente l'assolutizzazione del complesso fraterno. Poi scusami, cioè, i legami sociali... Cioè tu lo legittimi e lo istituisci. Noi non dobbiamo confondere la descrizione formale di che cosa rende possibile un legame sociale, che è quella che Freud consegna nel Disagio della civiltà o in altri luoghi, da quello che sono i legami sociali reali ai quali si riferisce Lacan quando tenta di pensare i discorsi. I legami sociali sono tentativi continuati o di rafforzare in forma estrema il disagio, oppure di dire: ma in fin dei conti possiamo fare a meno del disagio. Io quello che ho detto è che il capitalismo è un tipo di discorso che, perlomeno nella sua modo formale con cui è dichiarato, dice: non vi preoccupate, noi possiamo superare il disagio. E infatti, scusate, ma il disagio sociale, il disagio mentale, il disagio è il tema decisivo di tutti i discorsi, di tutte le pratiche curative, nel senso lato della parola cura, che oggi sono diffuse. Bisogna alleviare il disagio, soprattutto bisogna togliere la colpa, e questo non fonda legame sociale, questo è il più grande legame sociale che ci sia, cioè che lega gli individui e li costringe letteralmente. Perché sulla questione degli omosessuali, scusate, ma a A me non me ne importa niente, se vogliono stare insieme, se vogliono avere i diritti, ma figuriamoci, questa cosa io lo so, non ci si capisce mai, perché a me è capitato spesso, anche quando andai a Roma a fare un convegno sul transessualismo, una cosa micidiale, mi fecero vedere tutto un documentario su come un uomo diventava donna, che era una cosa francamente terrificante, e io continuavo a guardare verso il pubblico, evitando di guardare sullo schermo, come erano state le operazioni. E lì ci fu lo scontro con gli assistenti sociali. Perché? Perché io mi ero permesso banalmente di riportare quello che Lacan dice e che Safwan ripete sul problema di come si differenzia il transessuale dal travestitismo e via di seguito. Fui attaccato violentemente, volevo negare il diritto al transessuale di essere transessuale, ma non mi è mai passato per la testa. Il problema, fra altre cose, non è mio, è del transessuale, perché quando i medici mi dicevano lei ha ragione, professore lei ha ragione, chi le sa girano? Io non voglio fare l'operazione, quando poi questo dopo si uccide perché non sopporta la trasformazione che ha subito. E io capii che erano i medici che avevano della loro fondamentale stupidità, perché i medici come noi sono stupidi, e tanto più sono bravi quanto più sono stupidi. Gli assistenti sociali invece, che erano animati da questo bisogno di essere solidari, i diritti, producevano sconquasso, perché davano autorizzazione a chiunque chiedesse questo o quello, senza rendersi conto che poi il risultato finale era distruttivo. Intanto perché questo sogno di diventare donna, che poi è una mitologia dell'essere donna, è negato dal fatto che non possono avere figli. E vai a trovare il marito il quale accetta che sta con uno che era prima uomo, adesso è donna e non si capisce che donna è, perché è un po' artificiale e non può manco avere figli. Vivono una schifezza. Col che, figuriamoci, difendiamo la loro vita, perché non è lungi da me non difenderla. Ma non possiamo metterci nell'ottica che ha ragione. Cioè allora Pasolini, che si opponeva addirittura all'aborto, certo, è un reazionario in base a questo. Invece io penso di no, perché Pasolini aveva capito una cosa, e cioè che l'aborto significava fornicate in libertà e non vi preoccupate più, soprattutto l'imperialismo del rapporto eterosessuale, perché questo vuol dire l'aborto. E Pasolini ha ragione, perché il vero omosessuale è lui, non è quello che noi pensiamo, o poveri omosessuali devono avere il diritto di fare questo e quest'altro. Il vero omosessuale è Pasolini, che dice no, io non lo voglio l'aborto, e nemmeno voglio sentirmi libero di essere, perché io l'omosessualità la porto, e lo manifesto nella mia esistenza, come una colpa, viva Dio. Assume la colpa. Ma anche Foucault era su questa posizione, perché Foucault non era d'accordo con la legalizzazione dei matrimoni omosessuali. Ma infatti non sono d'accordo, questo lo pensano, è una cosa, questo lo pensano solo la borghesia liberale. Fatto, ma vedo la borghesia liberale, che ovviamente è no, no, ma perché praticamente soggetto del comune. Quando io penso ai legami sociali, dico che vanno, questo rispondo a Davide, che vanno sciolti, è perché i legami sociali non sono i legami sociali dove si accetta la castrazione. Perché i legami sociali, quelli reali, sono esattamente il contrario, è il tentativo disperato di non accettare la castrazione. E che cosa dice Lacan del discorso del capitalista? Che il capitalismo quale, da che cosa è caratterizzato? Dal fatto che non vede la castrazione. Più chiaro di così si muore. E dunque lo dovete sciogliere se volete che la castrazione torni. Cioè, se non sciogliete questo legame, com'è possibile far ricomparire la castrazione? Dovete scioglierlo necessariamente. In quanto all'accusa di Toni Negri, te la farò rimangiare. Ok.